Allora mi dica, nome? Giuseppe. Cognome? Cruciani. Fisico? Asciutto. Squadra? Radio 24. Luogo d'incontro? Firenze. La 28ª edizione della Firenze Marathon si terrà domenica 27 novembre. Radio 24 la seguirà insieme alla Zanzara e alle puntate di Essere e Benessere del venerdì. Radio 24, radio ufficiale della Firenze Marathon 2011, in corsa con gli ascoltatori.